Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, Fethullah Gulen, l'avete sentito un momento fa, è il, non solo l'avversario appunto principale di Erdogan, ma è stato anche la causa dello scontro verbale tra il presidente turco e il responsabile per la politica e la sicurezza comune europea Mogherini, che è intervenuta nei giorni scorsi su questo tema. Insomma, un dossier davvero caldo, come caldissimo torna ad essere quello che avviene in Ucraina, di 5 soldati morti e 7 feriti nonostante la tregua, al bilancio della giornata di combattimenti. Tutto questo all'indomani di un vertice dell'Unione Europea che ha accentrato almeno metà dei suoi lavori proprio su questo tema. Tusk in particolare, presidente, nuovo presidente dell'UE, Donald Tusk, ha detto: la situazione nell'Ucraina resta dinamica e drammatica e richiede una risposta immediata. Di sicuro si è affermata anche una certa divisione tra le parti, con Polonia e Stati baltici molto più determinati nel contrastare le attività russe e Francia e Italia più orientate verso la trattativa. Ma intanto, tra trattative e cambiamenti di idee, vi proponiamo anche un'intervista che il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava, ha realizzato con Frans Timmermans, il numero 2 dell'esecutivo, vicepresidente della Commissione europea, partendo proprio dal cambiamento di atteggiamento della Germania. Germania che, come sentirete, dice Timmermans, sta cambiando atteggiamento verso le politiche europee. Sentiamolo. La Germania sta cambiando. La Germania capisce anche che dobbiamo cambiare la politica europea. C'è sempre bisogno di riforme, questo lo dice anche il presidente Renzi, l'ha detto chiaramente, ma c'è anche bisogno di investimenti. Per questo abbiamo bisogno di una flessibilità che già c'è nei trattati e dobbiamo adesso applicarla. Quindi lei vede una cancelliera Angela Merkel più aperta rispetto al passato? Sì, io vedo un cambiamento in Germania, vedo anche un altro accordo fra la Germania e la Francia, stanno cercando dei progetti per fare degli investimenti, anche la Germania aggiunge 10 miliardi alla possibilità di fare degli investimenti in Germania, dunque veramente vedo un cambiamento della politica, aspettiamo un po' perché nonostante questo cambiamento c'è ancora il bisogno di fare delle riforme in Italia, in Francia e altri paesi. Il presidente della Commissione europea Juncker a Strasburgo questa settimana ha chiesto soldi veri agli Stati membri. Lei quanto è ottimista su questi soldi pubblici che arriveranno? Io ci credo. Io credo che questo piano Juncker funzionerà. E quando noi siamo in grado di mettere questo piano in effetto, gli Stati membri metteranno anche i soldi veri sul tavolo, ne sono assolutamente sicuro. Tutti gli Stati membri? No, non saranno tutti perché non sono tutti in grado di farlo, ma credo che ci saranno parecchi che lo faranno. E questo era dunque Frans Timmermans, che nonostante l'eccellente italiano è olandese, peraltro originario di Maastricht, quindi la città di uno dei più importanti trattati dell'Unione. Questa dunque è la sua visione del cambiamento in corso in cui ieri abbiamo assistito di fatto a un altro tassello con questo primo vertice della presidenza Tusk. E con questo direi che abbiamo completato le ultime notizie dall'Europa, Europa 24, che torna naturalmente stasera nell'appuntamento serale e lunedì con il consueto spazio intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.